Voli nel mondo, 57esima trasmissione dedicata agli emigrati. Visioni canore del Friuli. Estate, tempo dei ritorni. Fedeli ad un segreto appuntamento del cuore, gli emigrati friulani cui è possibile concedersi un periodo, pur breve, di vacanza, dopo i mesi o gli anni dell'assenza, fanno ritorno in Friuli. Alcuni puntuali a una scadenza esatta, altri a tramutare in realtà un sogno cullato da lustri. E tornare significa, per tutti, riaccostarsi agli affetti più cari, riprendere contatto con la terra degli avi e con le sue tradizioni e i suoi canti, il che equivale a dire col suo spirito più genuino. Come batte veloce il cuore dell'emigrato tornato a casa, allorché vede il sole ricoprire d'un polviscolo d'oro le cime dei monti che a nord e a est recingono il Friuli. Il canto sgorga spontaneo dai precordi, dalle pieghe della memoria. Sulla pluialte cime allieve il sorelia guinore, ma queste noie l'ore di bandonà l'amor. Canto gioioso questo che l'anima popolare friulana ha creato ispirandosi alla gloria del sole nascente. Ma il tramonto dell'astro esorta alla riflessione, ai ricordi. È l'ora della pace. Piene le cose un lene soffimento che l'annuncio del sonno imminente di tutte le creature. Quanto ci si addormenta, ci ride il volto della persona amata. L'emigrato, tornato ai suoi monti, in Carnia o in Valcellina, nel canal del Ferro o nelle vallate del Torre e del Natisone, rimormora i versi, tenta le note di questa villotta montanina. A plan cale il soreli da ur di un alte mont, una grande pasa regne che par un sium profond, e gli spioruti smanghin gli arbuti scasson là, il topping sir o biele cui sa la calzara. Thank you. Non c'è angolo del Friuli che non abbia una villotta che lo caratterizzi, la sua villotta. Come potrebbe l'emigrato carnico tornato di lontano non abbandonarsi a dolci pensieri ascoltando tra i boschi odorosi di resine e di mirtilli un canto di compaesani, un canto ingenuo che gli apprese dalle labbra di suo padre e che al padre fu trasmesso attraverso un lungo ordine di generazioni? Quanche lavi su Pavalchialda, ioi cula strezza par davor, mi clamavin Sualda, Sualda, ioi speranzona dal mio cuore. Whoa.